Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati, nuovo appuntamento con il mondo della scuola, oggi allargato, universale, la figura di San Pio X di cui abbiamo iniziato a celebrare i 100 anni dalla morte. C'è un comitato che sta lavorando da tempo e che ha proposto per i mesi scorsi, ma anche per tutti i prossimi 10 mesi fino all'agosto 2014, una lunga serie di iniziative. Ne parliamo già in altri spazi appositamente dedicati a Pio X, ma anche la scuola è coinvolta. Bentrovato il professor Lino Sartori, che fa parte del Comitato per il Centenario. Buongiorno a tutti voi. Dunque, dicevo, un programma che è già iniziato con i primordi, addirittura nel maggio 2012. Maggio 2012, sì. In realtà però il gruppo di lavoro, il comitato operativo, ha iniziato a lavorare fin dai primi mesi del 2011. Per mettere assieme una serie di iniziative e di carattere pastorale religioso e di carattere laico che coinvolgono i vari soggetti della nostra diocesi e non solo, a partire da giugno del 2013 fino a tutto l'anno 2014, quando le iniziative dovrebbero concludersi con una visita al Sommo Pontefice Papa Francesco. Sì, c'è il pellegrinaggio ufficiale della diocesi di Treviso, che è dall'8 al 10 di settembre, con udienza dal Santo Padre, data già fissata. Moltissime anche le iniziative editoriali che si stanno moltiplicando in queste settimane, in questi giorni. Per chi ci ascolta nel sabato sarà già passato, però chi ci ascolta prima, diciamo due cose su questo convegno internazionale di studi che ovviamente incentrerà la attenzione sul ruolo di riformatore di Pio X, con un punto di domanda, perché si parte proprio con un punto di domanda. Esattamente, sì. Allora, il tema che ci ha visto impegnati prevalentemente in questo periodo è stato appunto che cosa può interessare oggi di Papa Pio X. Allora, noi sappiamo una cosa, questa ormai è consolidata dalla storia: Papa Pio X ha avuto due diversi momenti di accoglienza da parte del pubblico internazionale. Fino al 1950 circa è stato considerato il Papa innovatore, il Papa che ha saputo far pulizia, portare aria fresca addirittura dentro il Palazzo del Vaticano. Successivamente poi l'attenzione verso di lui si è un po' spenta, rallentata, e anzi in questo contesto è prevalsa una linea interpretativa di tipo tradizionalista, cioè il Papa che si è opposto alle cose moderne, il Papa che appunto ha lottato contro il fenomeno cosiddetto del modernismo. Bene, a un anno esatto dalla sua morte, noi invece vogliamo chiedersi, ecco, a un secolo dalla sua morte, ma essendo ormai 3 anni che siamo dentro a queste cose, il tempo pare che è quasi contemporaneo. Esattamente, sì. Dico, ci siamo chiesti, ma ecco, con serenità, proprio senza alcuna pregiudiziale, di questo Papa che cosa possiamo ricordare oggi? Allora, guardiamo i fatti che lo hanno coinvolto, a partire non soltanto da quando lui fu Sommo Pontefice, ma dall'inizio del suo esercizio pastorale. Ricordiamo che Papa Pio X è stato, perlomeno nell'ultimo secolo e mezzo, l'unico pontefice che ha percorso tutta la scalata, diciamo così, dell'azione pastorale, da cappellano nei paesi qui della nostra provincia e diocesi fino ad essere Sommo Pontefice. Quindi noi vogliamo capire, con l'ausilio di studiosi che vengono da tutti i continenti, veramente da tutti i continenti, vogliamo capire quali sono gli aspetti che oggi possiamo ritenere attuali, interessanti, in una prospettiva storica, serena, senza pregiudiziali. Ecco perché il titolo del convegno è: di quale riforma si può parlare in Pio X, visto che ha interessato molti aspetti, dal diritto canonico alla pastorale, alla liturgia, alla musica, per esempio all'altra grande iniziativa che è di conoscenza popolare, il fatto cioè di aver abbassato l'età per l'accesso alla prima comunione per i bambini. Cosa che noi diamo per scontata, ma non era così. Esattamente, non era affatto così, ecco. Quindi ci si domanderà, nel convegno che verrà svolto giovedì 24 a Treviso presso Ca' dei Carraresi e venerdì 25 presso la Madonna della Salute, lo Studio Marcianum a Venezia, ecco, ci si domanderà appunto oggi come possiamo considerare a tutto tondo l'azione riformatrice che Pio X ha attuato nei suoi tempi con molto coraggio. Ci sono vari aspetti che vengono trattati nel convegno, non soltanto di carattere pastorale, liturgico, dogmatico, eccetera, ma anche di carattere storico, sociale, politico. Non dimentichiamoci che lui ha avuto anche sensibilità verso un problema che assilla tutti noi oggi, pensiamo al problema delle migrazioni. Ebbene, lui nel 1908 scrisse una enciclica breve ma molto significativa sul problema degli indios dell'America Latina, avendo il coraggio di porre in evidenza quali fossero già allora le tematiche di cui discutiamo oggi sulla questione delicata appunto delle popolazioni migranti. Una figura dunque che potrebbe avere anche una certa attualità, ovviamente fatte tutte le tare del caso ad un secolo di distanza. Facciamo una breve pausa e poi, sempre col professor Sartori, entriamo in altre iniziative, in particolare un bel progetto che ha coinvolto molte scuole del territorio. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. C'è un mare in silenzio quassù e a rete non ho, ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò. E fermano il fiato per me, ma li stupirò nel cerchio che poi nel vuoto farò. Le case, la gente, le vie lontane laggiù, errori degli uomini qui non contano più. La soglia del male che in noi io supererò e fino in platea ti raggiungerò. Amore, devo inventare io come i poeti e gli uccelli qui a terra, equilibrio non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare e su questo filo attaccato alla luna ogni sera vivrò, morendo davanti ai tuoi occhi, al tuo sé, mi libererò nel volo che so. Accarezzo il tuo grano e poi su nell'immensità, qualunque promessa sarà più vera d'acqua. Per lunghi secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare non può. Amore, che devo inventare io come i bambini e gli acrobati a terra, un mio senso non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più. Che tenerezza afferrarti le mani, portarti occhi nel blu, non scendere più. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, insieme al professor Lino Sartori, che è membro del Comitato per il Centenario di San Pio X, stiamo ripercorrendo alcune iniziative legate appunto a questo centenario. Arriviamo allora a una specifica che ha coinvolto il mondo dello studio, il mondo degli studenti. Si chiama Progetto Aurora. Progetto Aurora, sì, perché l'idea che si è mossa è stata questa: fare in modo che questo centenario, come del resto ci aveva suggerito Monsignor Vescovo Gardin, esca dall'ambito strettamente ecclesiale e coinvolga il più possibile il mondo esterno. Allora abbiamo cominciato a pensare ad un progetto che coinvolgesse tutto il mondo dell'istruzione e dell'educazione, partendo dalla scuola dell'infanzia fino all'università. Questo progetto l'abbiamo chiamato Aurora. Perché Aurora? Perché Pio X si pone proprio a cavallo fra i fenomeni culturali dell'Ottocento e i fenomeni che hanno iniziato poi il Novecento, quindi come l'aurora che segna la fine di una notte e dà l'avvio di una nuova giornata. Ecco, questo progetto lo abbiamo rivolto a tutte le scuole e alle università, e in modo particolare comunque alle scuole dall'infanzia fino alla scuola secondaria superiore, chiedendo a docenti e studenti di svolgere qualche aspetto culturale del periodo e della figura di Papa Pio X. Sostanzialmente prendiamo in considerazione il tempo che va dal 1835, anno in cui nacque, fino al 1914, anno in cui morì. Noi abbiamo suggerito una ventina di percorsi di carattere squisitamente e strettamente culturale che possono interessare la figura di Pio X, quali, che non so, il problema della considerazione del fanciullo, come dicevamo prima, se lui ha innalzato l'età dell'accesso alla comunità ai bambini più piccoli, voleva dire che aveva una certa idea del fanciullo. Allora, a quei tempi, la pedagogia, per esempio, che cosa diceva del fanciullo? La psicologia, ma stesso le scienze. Ricordiamoci che Pio X, quando era studente nel seminario di Padova, diede molto impulso agli esperimenti nel laboratorio scientifico di cui allora disponeva l'università e che studiosi attuali dicono essere ancora molto interessante. Insomma, abbiamo individuato una ventina di tematiche, però lasciando a docenti e studenti la libertà di individuare altri percorsi possibili. Ecco, in questo modo noi abbiamo coinvolto 15 scuole della diocesi di Treviso. Ci sono sia scuole, diciamolo ancora con la terminologia passata, elementari, sia scuole medie, sia scuole superiori. I docenti, o individualmente o coinvolgendo studenti, stanno portando a termine un percorso di studio, di ricerca. Termineranno questo lavoro entro marzo 2014, in modo che poi, con i progetti effettivamente conclusi, potremo anche predisporre una qualche manifestazione in modo da poter esporre, valorizzare, rendere noto al pubblico ciò che queste scuole hanno prodotto. Quindi l'idea era prendere spunto dagli aspetti culturali, sociali, economici, politici del tempo in cui Pio X visse e rileggerli in ottica attuale. Un modo dunque per studiare anche storia locale, ma storia universale, perché Pio X, come dicevi, è molto locale, partendo dalla sua Riese, le Cendrole, passando poi per tutte le località in cui è vissuto. Sì, certamente, ma per esempio c'è anche un altro aspetto che noi è interessato, che vediamo essere stato accolto dalle scuole. Consideriamo quell'enciclica di cui parlavo prima, relativa alle migrazioni. Noi sappiamo che le encicliche vengono scritte in latino. Ora, ci ha colpito questa idea. Far riflettere, per esempio, i ragazzi di quarta e quinta liceo, liceo classico, scientifico, di adesso, sull'uso di una lingua cosiddetta morta come il latino, che però ancora oggi viene praticata, viene usata per esprimere i problemi attuali. Noi siamo soliti pensare al latino di Cesare, di Cicerone, di Catullo, di Seneca, eccetera, ma invece siamo meno avvezzi a pensare che con il latino, come fece Papa Pio X, si possono esprimere anche problemi di rilevanza notevole dal punto di vista sociale, economico, politico, come per esempio il problema delle migrazioni. Allora, che un ragazzo di quinta liceo oggi sia messo davanti a un testo scritto nel 1908 in lingua latina e capire come con questa lingua, ripeto ancora, cosiddetta morta, si possa invece parlare di un problema attualissimo, bene, ha anche un valore formativo che noi riteniamo essere di particolare rilevanza. Penso se non altro anche al linguaggio giuridico, a quello scientifico della classificazione, no? Degli esseri viventi, ecco, e anche lì il latino è universale ancora una volta. Altro percorso nelle iniziative legate a Pio X coinvolge il mondo del lavoro e i soggetti economici. Sì, anche qui partendo sempre dall'idea che, ripeto, si aveva suggerito a Monsignor Vescovo, cioè di portare all'esterno ciò che riguardava le celebrazioni, abbiamo coinvolto anche i soggetti del mondo economico e del mondo sindacale. Hanno risposto una decina di, chiamiamole, istituzioni del nostro mondo economico. Si possono trovare i nomi di queste istituzioni nel sito centenariopiodecimo.x, ecco, per cui chi volesse sapere chi c'è e chi fa le può trovare lì dentro. Ecco, qui il progetto si condensa in due cose molto particolari. Ora, abbiamo elaborato assieme questa decina di soggetti una prima idea, cioè fare un percorso che consiste in 6 convegni dislocati in altrettante realtà della provincia di Treviso. Si partirà dalla città di Treviso il 21 marzo 2014 e poi a cadenza grosso modo mensile si toccheranno le località di Montebelluna, Castelfranco, Conegliano, Oderzo e poi si terminerà a Treviso. In questi convegni noi affronteremo un aspetto particolare dell'economia attuale, cercando di comparare questo aspetto con quanto poteva accadere ai tempi di Pio X. Per esempio, oggi si parla di sostenibilità. Ecco, Pio X stesso fece delle azioni per sostenere, ad esempio mediante l'istituzione di scuole femminili. A quei tempi era un'impresa assurda, perché accedevano alle scuole poche persone e prevalentemente di sesso maschile. Lui invece aprì proprio una scuola di formazione riservata alle donne. Allora, ripeto, con questi 6 convegni noi vogliamo prendere in esame qualcuno degli aspetti che oggi ci assillano relativi alla crisi e vedere come Pio X a quel tempo li aveva affrontati e che cosa oggi può esserci utile da quel periodo. Ultima pausa e poi ancora aspetti legati a questa proposta e anche un altro percorso ancora per i 100 anni di Pio X. Dal mondo della scuola. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up. With the quickness, talk with the witnesses. Hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, I mean? Or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, and my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black, and the men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. In closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection, cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be, so go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Prima parte di questa puntata dal mondo della scuola legata alle proposte per il centenario di Pio X insieme a uno dei membri del comitato per il centenario, il professor Lino Sartori. Dicevamo poco fa delle iniziative legate e rivolte al mondo del lavoro e ai soggetti economici. C'è anche un'altra proposta, un'iniziativa che è rivolta agli studenti, come si diceva una volta, meritevoli e bisognosi, che esistono ancora. Oh, certamente, anzi sempre di più. Allora, sempre attraverso l'aiuto di questi soggetti economici di cui parlavamo, stiamo costituendo un fondo monetario, attraverso il quale sostenere studenti appunto meritevoli, quindi in regola con gli studi, che abbiano fatto un progetto particolare con qualche loro docente universitario, ecco, i quali si trovino però in condizioni di svantaggio economico, per cui hanno bisogno di un supporto finanziario per portare a termine il loro progetto. Ecco, siamo in fase ultimativa di questa idea, ma questa idea dovrebbe essere il coronamento di quanto stiamo facendo con i 6 seminari di cui vi parlavo prima con il mondo economico. Cioè, concretamente, dopo aver affrontato le tematiche della crisi economica, noi siamo capaci di lasciare nel territorio un segno concreto del passaggio dei 100 anni della morte di Pio X, un segno concreto che impegni tutti e che possa aiutare chi è meritevole ma in condizioni di svantaggio? Ecco, la risposta finora è positiva e quindi la attueremo nel 2014. Questo percorso sul lavoro e con i soggetti economici coinvolge tutta la provincia di Treviso, quindi anche l'altra diocesi che è sull'altra sponda del Piave, quella di Vittorio Veneto, così come anche un altro percorso che invece mette insieme Caritas e Confartigianato. Sì, allora la cronaca è fin troppo spietata, ci parla quasi ogni giorno di suicidi di imprenditori, prevalentemente delle piccole e medie imprese, i quali dopo, immagino, una drammatica situazione interiore arrivano al gesto finale e tremendo del suicidio. Allora se ne parla, ci sono state anche di recenti iniziative, quali marce eccetera, però il problema è di fare qualcosa di concreto, di stabile, di permanente. Ecco, Confartigianato Marca Trevigiana e Caritas hanno messo assieme un progetto che vedrà come momento saliente, non unico, ma momento così di maggior richiamo, una bella iniziativa che si farà il 28 di novembre, giovedì 28 novembre, al pomeriggio, presso Casa Toniolo. L'iniziativa consiste in questo. Il professore, lo psichiatra, il noto psichiatra Vittorino Andreoli, ci aiuterà a riflettere su un tema di cui lui si sta facendo portatore da un po' di tempo. Cioè, Andreoli dice, proprio nei momenti di maggior bisogno, di crisi, non è vero che gli uomini si lasciano andare ad atteggiamenti di cannibalismo reciproco. No, è vero il contrario invece, che se opportunamente motivate, vengono fuori invece le istanze più solidali, più mutualistiche delle persone. Allora, Andreoli dice, in epoca di crisi è più facile che l'uomo si dimostri solidale con i propri soggetti che sono in difficoltà. Quindi, in quella data, 28 novembre, ripeto, ci aiuterà a riflettere come dalla crisi possono venire fuori ragioni di solidarietà. Ci sarà anche la presenza del vescovo Gardin e quindi assieme si rifletterà su questo tema, in modo particolare vedendo come poter supportare gli imprenditori dal lato della famiglia, perché non dimentichiamoci, un imprenditore normalmente ha una famiglia, l'età anche in cui lui decide di fare poi questo gesto è un'età in cui si capisce che ha una famiglia prevalentemente giovane, quindi lascia moglie e figli, eccetera. Allora, come poter sostenere anche la famiglia di soggetti che si trovano in questa situazione. Quindi Caritas e Confartigianato delle due diocesi hanno messo in piedi questo progetto molto interessante. A chi è rivolto l'invito alla partecipazione? A queste tipologie di soggetti, in primo luogo ai sacerdoti che nei vari vicariati o foranie si occupano appunto della Caritas, ai sacerdoti e ai loro collaboratori ovviamente. In secondo luogo ai dirigenti della Confartigianato, sappiamo che la Confartigianato è suddivisa nel territorio, è strutturata in mandamenti, in ogni mandamento ci sono uno o più dirigenti, ecco, loro stessi possono essere, anzi sono coinvolti in questa iniziativa, ma dopodiché sono coinvolti tutti coloro che operano nelle diocesi a livello di pastorale sociale del mondo del lavoro. Qual è l'idea che ci spinge? L'idea è la seguente: se noi conosciamo in anticipo le situazioni di bisogno, siamo anche in grado di mettere in azione qualche progetto per prevenirle. In caso contrario dovremo solo celebrare dei necrologi e dei funerali. Quindi sacerdoti Caritas, operatori Caritas, dirigenti Confartigianato, operatori della pastorale sociale del lavoro sono, come le abbiamo definite, le antenne della comunità per poter segnalare in anticipo queste situazioni di precarietà e poi mettere di volta in volta in piano un'azione concreta per prevenire i gesti finali che, ahimè, sono troppo ricorrenti. Sulla figura di Pio X avremo poi molto altro spazio nella rubrica settimanale che già a lui stiamo dedicando a questo centenario, quindi avremo modo di risentirci. Per tutti gli appuntamenti che si stanno moltiplicando, sono tanti in calendario, rimando al sito centenariopiox.it. In un minuto chiedo al professor Sartori, visto che ormai sono 3 anni più o meno che se ne occupa, che cosa l'ha colpito, magari personalmente se può dircelo, di questa figura di Pio X? Guardi, una cosa è ovvia, balza all'occhio anche chi leggesse una semplicissima biografia. Questo uomo era, come diciamo oggi, no, con una frase un po' ritrita, era a 360 gradi. Cioè aveva un'apertura mentale che è sconvolgente. Si interessava di tutto, non solo a livello così di interesse teorico, ma agiva poi in tutti gli ambiti dei quali si interessava. Quindi è un personaggio che potremmo definire veramente poliedrico, multisfaccettato. Non si finisce mai, insomma, di capire che cosa abbia fatto. E avremo modo e tempo nei prossimi mesi di approfondirlo in tutti gli spazi che vi dedichiamo. Grazie al professor Sartori per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.